Che ti fa danzare, cantare, sì, per l'amor ci vuol ritmo, per il cuore ci vuol swing, non cercare di sognare, tu puoi cantare, tu puoi danzare, la canzone vuol così. Ci vuol ritmo, per cantare ci vuol swing.